Killing Type manda Palmer a iniziare come sigla Sister Who Is Blooming, puntata numero 31. Scusate, allora, orario vecchio, dalle 10 alle 11 con voi in chiusura del martedì femminista e lesbico autogestito che avete appena sentito in un palinsesto ricchissimo. Vi ricordo i riferimenti 0649 17 50, per squillarci qui in diretta a Via dei Volsci a Radio Onda Rossa. Il blog del martedì femminista e lesbico autogestito è mfla.noblogs.org. Perché esiste Queer is Blooming dalle 10 alle 11, visto che di solito è dalle 17.15 alle 18.15? Perché siamo delle precarie e quindi non siamo padrone del nostro tempo e del nostro lavoro, e per fortuna, grazie alle pelose di quando eravamo pelose, storie di donne senza peli sulla lingua che mi hanno concesso il loro spazio e hanno preso un po' del mio. Prima artista di questa sera, ciao! Ne abbiamo parlato, un artista molto interessante. Intanto ha una voce super sexy che mi piace da morire, quindi insomma vi consiglio di fare attenzione al pezzo che vi sto per far ascoltare. Poi di lei abbiamo parlato perché è un'artista molto eclettica. Una cosa che mi piace molto di lei è che le piace collaborare con tante artiste, tante altre persone dell'ambiente musicale. Quindi questa è una cosa molto bella perché ti permette di sperimentare anche delle cose che probabilmente da sola non faresti. Ciao, ne abbiamo parlato l'anno scorso per il suo progetto con Tao and Myra, che era molto bello. Ve l'aveva fatto ascoltare la Music, che faceva il programma qui con noi di Sister Who is Blooming. E adesso ha un nuovo progetto. Esce per la Ribbon Records, che è una etichetta indipendente molto molto interessante. Il suo nuovo progetto si chiama Tao and Get Down, Stay Down, che mi fa molto ridere. Sta per uscire il 5 febbraio per la Ribbons Music il suo nuovo album, e io vi faccio ascoltare una super anteprima, Holy Roller. Lei è Tao and Get Down, Stay Down. You give me some. It's too hot for habits. My patience is done with me. I wanna live in times that touch. I wanna stay when my temper beats. And Get Down, Stay Down, Holy Roller. Questa era appunto l'anteprima del album in uscita per la Ribbon Music. Vi invito a guardare, a visitare il SoundCloud della Ribbon Music, perché ci sono un sacco di artiste interessanti. Tanto per dirvi, con la Ribbon in America esce Laura Marling oppure i Lower Dance, insomma, che sono delle artiste. Lower Dance è la band di John Hunter, insomma, artiste che ci piacciono molto, che abbiamo ascoltato qui a Sisterhood. Quindi l'indirizzo è soundcloud.com/ribbonmusic. Così magari scoprite anche delle artiste che magari mi sono sfuggite e me le suggerite. Dove? Su Sisterhood is Blooming, magari su Facebook, dove un sacco di voi condividono durante le settimane i loro ascolti, e quindi molto spesso, lo sapete, insomma, mi fa piacere perché è comunque uno stimolo bellissimo far ascoltare alcune delle cose che ci passate voi, che ci fate notare voi. Una band a cui tengo molto, mi piacciono tantissimo anche se sono giovanissimi, nascono nel 2009 a Londra, in Inghilterra. Loro si chiamano Veronica Falls ed escono per un'etichetta che a me piace tantissimo, si chiama Slumberland Records. Tanti artisti e tante artiste, o piccole band molto molto interessanti. Il personaggio chiave di Veronica Falls è Roxanne Clifford, che è appunto voce e chitarra della band. Loro hanno fatto un album nel 2011, un album omonimo nel 2011, e adesso sta per uscire per la Slumberland, credo sia intorno all'8 febbraio la data preannunciata, il loro nuovo album, Waiting for Something to Happen. E questo pezzo è un po' anche dedicato a me stessa, nel senso che sentirete nella strofa del pezzo che Roxanne dice, insomma, seppellitemi viva, perché certe volte quando ti senti pressato dalle cose intorno, quando ti senti schiacciata dalle cose che non puoi assolutamente controllare, a cui per forza ti devi piegare, dici, vabbè, a questo punto seppellitemi viva, no? Veronica Falls, Buried Alive. Falls, che stanno appunto per uscire tra pochissimo per la Slumberland Records con appunto il loro nuovo album. Piccola band pop punk, diciamo stile Vivian Girls, Doom Girls, lo sapete che mi piace questo genere di musica. Sono molto divertenti, delle belle schitarrate e la voce molto molto bella, e le tastiere di Kate Whittaker a condire il tutto. Loro si chiamano Evans The Death, so pochissimo di loro da un punto di vista personale, credo che siano di Glasgow se non sbaglio, quindi sta per uscire anche per loro, sempre per la Slumberland, finalmente un album. Sono una di quelle band, insomma, che nascono sostanzialmente nella camera di qualcuno, dove registrano una cassetta, poi cominciano a farsi sentire in giro, fanno un tour, una etichetta li sente e dice vabbè, venite a registrare con noi. È successo a Evens the Death, che tra l'altro è un verso di una poesia di Dylan Thomas, e il pezzo che vi faccio ascoltare si intitola Telling Lies. Evens the Death, questo pezzo si intitolava Ten Lies. Cambiamo registro. La prossima artista si chiama Laura Mvula, è una musicista che ha una formazione classica, è una musicista, suona il piano ed è una, appunto, scrive i suoi pezzi, una songwriter, arriva da Birmingham e probabilmente, insomma, fra un po' saremo, visto che ha appena firmato un contratto con la RCA Records, insomma una major, probabilmente, insomma, verrà buttata nella miriade di Adele e copie varie, e quindi probabilmente la perderemo per strada. Quindi ancora adesso probabilmente possiamo ascoltare qualcosa di bello fatto da lei. Insomma, io spero che si riprenda e magari scelga un'etichetta indipendente per fare qualcosa di più indipendente, appunto. Il suo EP di debutto si intitola She ed è uscito a dicembre scorso, insomma da poco più di un mese. E sul suo sito, lei si chiama Laura Mvula, Mvula. Potete trovare sia dei video e alcuni file se volete remixare il suo pezzo, il pezzo che stiamo per andare ad ascoltare. Lei è Laura Mvula, il pezzo si intitola Green Card. Take me outside, sit in the green garden. Nobody out there, but it's okay now. Bathing the sunlight, don't mind if rain falls. Take me outside, sit in the green garden. Oh, wow. And I'll fly. wings of a butterfly, high as a treetop, down again. Putting my bag down, taking my shoes off, walking the carpet, a green velvet. Laura Mvula, Green Card, è il pezzo che avete ascoltato. Prossima band. Allora, immaginate le Bengals coi sintetizzatori però, anziché le chitarre e il basso e il tamburello, perché non c'era la batteria. Ecco, più o meno le tipe che vi sto per far ascoltare è una all female band, insomma una band di donne: Anastasia, Courtney, Anastasia alla chitarra e voce, Courtney al basso, Kathleen alle tastiere e Jordan alla batteria. Si chiamano Feathers, arrivano da Austin, Texas, che deve essere un posto veramente inaspettato, insomma uno se la immagina tipo non c'è niente, e invece arriva un sacco di bella musica interessante, comunque abbastanza improbabile per essere Austin, Texas, come appunto le Bengals synth pop. Se volete ascoltare il loro album di debutto, che è stato If All Now Here, e che praticamente uscirà il 4 marzo in America e il 15 aprile qui in Europa, secondo me mi darete ragione, sono molto divertenti, chiaramente appunto è The Bengals synth pop, quindi insomma non vi aspettate, aspettatevi questo, ve lo dico. Il pezzo si chiama Land of the Innocent, loro sono Feathers. Queste erano le Feathers, Land of the Innocent. Dovete sapere che qui, insomma, Radio Onda Rossa è una radio aperta, quindi insomma ogni tanto succede che quando sei in trasmissione poi arrivano delle persone e in qualche modo condividono lo spazio con te, che è una cosa bellissima, e ti dicono mentre vanno le Feathers con Land of the Innocent: ma tu metti poca musica italiana, per esempio, oppure tu metti poca musica spagnola. E in effetti sì, è vero, insomma, io a parte citavo le CC Destroy, che sono insomma una band attuale che mi piace tantissimo, eccetera eccetera, c'è pochissima roba che mi piace, ma insomma più che altro seguo i miei gusti, quindi lo so, magari è una pecca, però insomma non lo faccio apposta, sostanzialmente è quello che ascolto. La Neon Gold Records è un'etichetta che è nata nel 2008, un'etichetta che ha base a New York City e Londra, e fino a qualche tempo fa era veramente una delle mie favorite, specializzata in 7 pollici che pubblica, stampa e vende in copie limitate, tipo 250-500 copie, quindi quelle cose super fighe che soltanto pochi hanno, che un po', insomma, sono un po' indie snob come a me piace un pochino, lo devo ammettere. Marina and the Diamonds, tanto per citare qualcuna, insomma, che poi abbiamo passato anche in radio, hanno pubblicato con loro dei sette pollici. Poi è successo un paio d'anni fa che hanno fatto una joint venture con la Columbia Records, quindi insomma magari non sono più indipendenti come prima. Devo dire che il loro blog, che appunto si chiama Neon Gold, su Blogspot, penso che lo trovate, sì, blogspot.it, è comunque un blog molto interessante che vi propone tantissima musica, soprattutto musica pop, che è una cosa figa, pop electric, roba da sentire, da mettere magari anche da mixare per mettere nelle serate, nei club e alle feste, quindi insomma è una roba che io consulto molto spesso, quindi magari fateci un giro, è neon gold records.blogspot.it, dove appunto potrete raccogliere le loro informazioni. Tra le ultime diciamo sollecitazioni, gli stimoli che arrivavano da questo blog, c'era questa band, una band piuttosto sconosciuta, loro vengono da Glasgow, so pochissimo di loro, quindi insomma vi faccio ascoltare il pezzo che mi ha catturato. Loro si chiamano Churches e il pezzo si intitola Lies. Never curse your name. I keep my lips shut tight. In un tripudio di synth ci lasciano Churches con Lies. Questa era appunto questa band di Glasgow che vi ho fatto ascoltare. Mi sembra molto divertente questo fantastico revival degli anni Ottanta, che insomma prende anche posti improbabili come Austin, Glasgow, eccetera, eccetera. Insomma, che comunque alla fine è molto divertente in questa interpretazione contemporanea. Prossima band, escono per la City Slang, che è appunto un'altra etichetta che ci piace tantissimo. Sono una costola di Scatter Trees, che appunto è una band che vi abbiamo fatto ascoltare un po' di tempo fa. La costola sono Nate Island, Alissa Ritchie e Ryan Estwing, che appunto hanno deciso di staccarsi da Scattered Trees e fare questa nuova band. Si chiamano On and On, devo dire che il nome non è proprio fantasticamente fantasioso, però il pezzo Ghost che vi faccio ascoltare fra poco è molto divertente. L'album mi è piaciuto molto, mi ha catturata. L'album esce per la City Slang il 4 marzo prossimo, quindi insomma, come al solito, Sisterhood is Blooming vi fa ascoltare le anteprime, poi sarete voi a decidere. Devo dire, prima di farvi ascoltare il pezzo, che sia Churches che Laura Muvla sono un po' un debito con Kokeshi H. Virginia, che su Sisterhood is Blooming su Facebook, sul gruppo, ogni tanto anche lei ci suggerisce delle cose molto fighe, quindi noi le riproponiamo durante il programma, come molte di voi. On and On, il prossimo pezzo si intitola Ghosts. Thank you. On and On, questo pezzo si titolava Ghosts e devo dire che è uno dei miei preferiti di questa scaletta di questa sera di Sister Fury's Blooming, puntata numero 31. Non vi ho sentiti tanto, 0649 1750, Sister Fury's Blooming su Facebook e poi appunto il nostro blog di riferimento twowomenshow.wordpress.com per ascoltare la playlist che abbiamo presentato nei vari programmi, scaricarvi il programma oppure semplicemente ricordarvi quella band, quell'artista che vi piaceva e che invece volete approfondire. Prossima artista, beh, è un'artista sostanzialmente che ho nel cuore. Lei si chiama Tracy Thorn, vi ricorda qualcosa? Everything But The Girl, per esempio? Insomma, una delle artiste che fanno parte, almeno per le ragazze della mia età, che sono nate intorno agli anni 70, fa parte della nostra storia personale. Tracy Thorn ha fatto un album natalizio, che io ovviamente vi presento con un mese di distanza, per non indurvi in tentazione a comprarlo durante un periodo in cui non si comprano gli album natalizi. Si intitolava Tinsel and Lights, decorazioni e luci, quindi molto natalizio, ed era uno dei suoi, racconti in un'intervista che ho letto, era uno dei suoi sogni, insomma, quello di pensare, di realizzare un album chiaramente pensato da lei, interpretato e arrangiato da lei, che avesse qualcosa di natalizio. Lo fanno un po' tutti, quindi insomma anche io lo perdoniamo a Tracy Thorn. L'album contiene 10 cover e due brani originali. Quella che vi faccio ascoltare io, insomma, è un album carino, divertente, niente di che, insomma, se non lo trovate non fa niente. Però questo pezzo è molto bello, è la sua interpretazione di un brano dei White Stripes che si chiama In the Cold Cold Night, in versione natalizia. E lasciatemi passare una piccola dedica ad Ermu, che stanotte compie 30 anni, quindi insomma mi sembra almeno che ti arrivi la voce di Tracy Thorn, che insomma è una voce vecchia quanto me, In the Cold Cold Night. Lei è Tracy Thorn. Questa era Tracy Thorn con la sua interpretazione di In the Cold Cold Night dei White Stripes. E sotto, sentite in sottofondo il pezzo Joy, insomma, capite che c'è anche un'atmosfera molto natalizia ed è per questo che ve l'ho risparmiato in quel periodo. Prossima band, loro si chiamano Golden Girls, con tre R come le Riot. Insomma, è quel tipo di band, anche loro di Glasgow, quel tipo di band che diventano famose per sette pollici, insomma, molto DIY, produzione indipendenti, cassette che girano, insomma, cose molto carine. So pochissimo di loro come, diciamo, biografia, quindi non sto molto a cercare di inventare notizie che non ho. Le ho scoperte tramite la Slumberland Records che vi ho citato prima, e quindi vi faccio ascoltare un pezzo tratto dall'album che uscirà per la Night School in Europa, credo intorno al 26 febbraio, e poi insomma negli Stati Uniti tramite la Slumberland e nel Canada tramite la Slumberland un pochino dopo, che pare che ormai insomma noi qui in Europa abbiamo le anteprime degli album, quindi insomma anche gli album americani pare che ormai escono una settimana prima in Europa, cosa che prima non succedeva. Loro sono Golden Girls e il pezzo che ho scelto per voi si intitola Past. Quanto vi ricordavano i Pastels, voi appunto della mia era, degli anni 70, Pastels che era una band di Glasgow degli anni 80, insomma, che non ha avuto una vita lunghissima. Anyway, a proposito di Golden Girls, se vi è piaciuto quello che avete ascoltato, andate sul loro Bandcamp e potete scaricare con la formula Name Your Price, quindi insomma decidete voi quanto pagare i due pezzi contenuti da 7 pollici, da cui ho tratto il pezzo che avete ascoltato. Prossima band, lo si chiamano Blue Hawaii, escono con un'etichetta di Montreal che si chiama Arbutus, che è molto molto interessante. Praticamente una sorta di, questa etichetta è una sorta di collettivo di artisti che in qualche modo mettono insieme risorse, potenzialità, energie e probabilmente anche soldi per prodursi. Non è soltanto legata alla musica, ma è legata anche alla scena del, insomma, multimediale, ai film, alla letteratura, insomma, quindi fanno tantissime cose. È una cosa molto molto interessante. I Blue Away appunto sono, sono diciamo una band tra le artiste e gli artisti che questa Arbutus vi propone. Il pezzo che ho scelto per voi dal loro EP, adesso sì, che contiene 8 canzoni, che è uscito a maggio dell'anno scorso, no, di 2 anni fa, scusate, ma questa non me l'ero letta prima, quindi ve la sto leggendo al volo mentre ve la sto dicendo, di 2 anni fa, un EP di 8 canzoni, loro sono Blow Away, il pezzo che ho scelto si intitola Into. Non me ne improverate che sforo nelle puntate degli altri, no, Morfire che dovrebbe seguire non si vede stasera, diciamo che la mia clac è competitiva con la sua, che insomma di solito non è mai non è mai da solo, che è una cosa bella, insomma, da fare in trasmissione live. L'ultima band di questa sera, loro si chiamano Polissa, vengono da Minneapolis, Minnesota, fanno una sorta di electronic R&B sound, qualcosa del genere, insomma è un indie rock abbastanza contaminato, molto interessante. Il suggerimento ci arriva da Elisa Lu, che è una nostra amica che ogni tanto ci fa ascoltare cose belle, soprattutto con la sua Net Label. Assolutamente andate a controllare, perché sono uscite delle cose nuove molto molto molto carine, scaricabili in modo assolutamente free, gratuito, quindi insomma non vi costa niente, fatelo, ascoltatelo e insomma eventualmente poi andate a sentire i concerti che Net Label vi propone. Polissa, vi dicevo, il loro primo album si chiama Give You The Ghost, è stato realizzato a febbraio dell'anno scorso, hanno avuto un grande successo e soprattutto sapete come funziona l'ambiente musicale, no? Qualcuno di famoso dice Gesù, questi sono fichissimi, e in questo caso, nel loro caso di Polissa, è successo che Bon Iver, il fantastico Bon Iver, che ve lo dico insomma, visto che siamo in pochi ad ascoltare questo programma, a me fa cagare. Ha detto è una delle sue band preferite, e quindi da lì wow, tutta la critica fantastica, sono fantastici, sono belli, loro sono belli effettivamente, che piacciono a Bon Iver non gliene frega nessuno, e ha messo anche delle voci in alcuni dei loro pezzi di quest'album, io ve li faccio ascoltare, vi saluto, vi do appuntamento a fra due settimane. A che ora non lo so, vedremo come evolverà il palinsesto, la situazione, insomma io spero di essere con voi in diretta, altrimenti magari registrerò una traccia per voi per farvi ascoltare delle cose nuove. J.D. Samson sarà Le Tigre, Man, insomma la conosciamo, metterà musica l'8 febbraio qui a Roma, quindi chi è da queste parti, voi che ci ascoltate da Roma, andatela a sentire, perché farà sicuramente una bella selezione ballabile, per una volta anche robe che possiamo ballare sul serio e non troppo electronic spinta. Loro sono Polissa, io Donna Sonica vi saluta, il pezzo che ho scelto per voi si intitola Amongst.